Quarta unità. Vita privata. Dialogo. Visita a un amico. Ciao, Andrea. Salve, che bella sorpresa. Disturbo? No, anzi. Entra pure. Accomodati. Solo pochi minuti. Perché tanta fretta? Vedi, sto andando in palestra e sono già in ritardo. Prendi un caffè? Volentieri, grazie. Lo preparo subito. Anzi, ne faccio due. Così ne bevo un altro anch'io. Vuoi dello zucchero? Del latte? No, grazie. Ma dove sono i bambini? Non li vedo. In bagno. Stanno facendo la doccia. Insieme? Sì, è più divertente. Allora, come va? Che novità hai da raccontare? Anna sta aspettando un bambino. Che bello! Congratulazioni! Vedo che lavori anche oggi. Cosa stai facendo? Devo scrivere una relazione per lunedì. Tu lavori troppo e fai poco movimento. È che non ho tempo. Chi lo dici? Anzi, adesso vado. Ascolta, fra mezz'ora arrivano Giulio e Laura. Perché non li aspetti? Mangiamo insieme. Grazie, ma no, devo proprio andare. Ho un allenamento. Se è così, non insisto. Ciao e a presto. Arrivederci, Andrea. E grazie per il caffè. Proviamoci insieme. Esercizio 3. Ascoltate e ripetete. Ciao, Andrea. Salve, che bella sorpresa. Disturbo? No, anzi, entra pure. Accomodati. Solo pochi minuti. Perché tanta fretta? Vedi, sto andando in palestra e sono già in ritardo. Prendi un caffè? Volentieri, grazie. Lo preparo subito. Anzi, ne faccio due. Così ne bevo un altro anch'io. Vuoi dello zucchero? Del latte? No, grazie. Ma dove sono i bambini? Non li vedo. In bagno. Stanno facendo la doccia. Insieme? Sì, è più divertente. Allora, come va? Che novità hai da raccontare? Anna sta aspettando un bambino. Che bello! Congratulazioni! Vedo che lavori anche oggi. Cosa stai facendo? Devo scrivere una relazione per lunedì. Tu lavori troppo e fai poco movimento. È che non ho tempo. A chi lo dici? Anzi, adesso vado. Ascolta, fra mezz'ora arrivano Giulio e Laura. Perché non li aspetti? Mangiamo insieme. Grazie, ma no, devo proprio andare. Ho un allenamento. Se è così, non insisto. Ciao e a presto. Arrivederci, Andrea, e grazie per il caffè. Vocaboli, pagina 107. Bitter, caffè, latte, cappuccino, aranciata, succo di frutta, tè, birra. Vocaboli, pagina 109. Piscina, teatro, cinema, concerto, discoteca, palestra. Vocaboli, pagina 111. Preparare le valigie. Guardare la televisione. Correre. Prendere il tè. Aspettare. Leggere. Scrivere. Bere. Mettere i bambini a letto. Prendere il metrò. Spendere. Preparare la cena. Vedere gli amici. Vocaboli, pagina 114. Pane. Pasta. Frutta. Biscotti. Vino. Pesce. Riso. Carne. Quarta unità. Ascolta e rispondi. Esercizio 18. Dialogo 1. Paolo, vai a rispondere al telefono? Perché non rispondi tu, per favore? Io sto lavorando. Ma io sono qui in bagno. Sto facendo la doccia. Oh, beh, pazienza. Dialogo 2. Ciao, Laura. Ciao, Marisa. Che sorpresa. Come stai? Bene, grazie. E tu? E i tuoi? Tutti bene. Ma perché non prendi un caffè con me? Così parliamo un po'. Grazie, ma no, ho fretta. Sto andando dal dentista e sono già in ritardo. A presto. Ciao, Marisa. Arrivederci. Dialogo 3. Volete ancora un po' di risotto? Ah, grazie, volentieri, è così buono. Ne prendo un altro po' anch'io. Sei una cuoca straordinaria. Ma va, del vino? Sì, ma poco, grazie. Ecco, così facciamo un brindisi alla cuoca. Sì, è vero. Dialogo 4. Su, giù, e su, e giù. Destra, sinistra, destra, sinistra. Un, due, tre, quattro, così, bene. Lei, Daniela, cosa sta facendo? Perché non si muove con le altre? Ma io sono stanca. Questo esercizio è troppo difficile per me. L'esercizio è facile, è lei che è troppo pigra. Vuole o non vuole perdere un po' di chili? Avanti, su. Un, due, tre, quattro. Esercizio 19. Che bella sorpresa! Bevi qualcosa? Che novità hai da raccontare? Mangiamo qualcosa insieme. Lui sta per partire per motivi di lavoro. Facciamo il punto. Comprensione orale, pagina 121. Salve! Ciao, come mai a quest'ora? Disturbo? Affatto, entra pure. Che stai facendo? Sto preparando un tè cinese. Ne prendi un po' anche tu? Grazie, lo prendo volentieri. Allora, come va? Beh, non troppo bene. Perché? Stai male? No, male no. Ma sono un po' nervosa. Giulio va in America per motivi di lavoro e io resto sola. Perché non vai con lui, scusa? Ma come faccio con i bambini? Andate in America tutti e quattro. Pensa che bello.